Benvenuti. Allora, abbiamo fatto un po' di pausa perché ci siamo persi un po' nella programmazione, ma oggi recuperiamo con il primo di un duo di film brutti. Perfetto. Quello di cui parleremo la prossima settimana è un film brutto, che noi tra l'altro abbiamo già registrato in questa cosa, è un film brutto, però fa il giro, più o meno. Questo è un film brutto che resta brutto. Però io vorrei fare una mini riflessione sapio su questo film. Allora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del reboot del film Anaconda del 97. Reboot Lullo. Basta questo come intro? Sì. Nel senso che hanno preso il film di Anaconda e l'hanno... anzi, no. Hanno preso Jumanji. E l'hanno moddato con il film di Anaconda. Anzi, neanche, secondo me, è più... Com'è che si chiamava quello con Robert Downey Jr. nero? Full Metal... No, come Tropic si chiamava? Thunder. Tropic Thunder. Ah. Hanno preso Tropic Thunder e l'hanno moddato con un film di Anaconda nel 2025. cosa dirvi prima di parlare del film? Protagonista Jack Black e... Paul Rudd, abbiamo anche Steve Zahn che vabbè e come si chiama lei? Tandy Newton, quella di Westworld, vabbè, avete capito. Sì, quella come si chiama? Non mi ricordo più. Tendai con i Gods of Riddick, non mi ricordo. Sì. E poi abbiamo altre comparsate, altri personaggi un po' meno famosi e poi altre camei, un paio di due di numero camei di due attori famosi, ma ci arriviamo. Come funziona? Questo è un reboot di Anaconda ed è un reboot meta reboot, nel senso che è un reboot, i protagonisti girano il reboot di Anaconda. Nonostante poi questo sia il film di Anaconda, non mi sono spiegato bene. Allora, i protagonisti sono appassionati di cinema, lavorano nel cinema due di loro, nel senso che uno fa video per matrimonio e uno fa l'attore, ma classico attore che fa ruoli secondari, mai assunto, cose così. E decidono di rimettersi in gioco, e poi anche questo ne parleremo dopo, e decidono di andare appunto in quattro amici sul Rio delle Amazzoni a girare il reboot di Anaconda, e quindi girano il reboot di Anaconda, essendo poi il film un reboot di Anaconda. Vabbè, è tutto completo, tutto, sembra tutto riconvolto, in realtà è una cacata, quindi poi alla fine non è così complesso. Non vi dico altro, introduzione del film, della trama, perché non c'è niente da dire, guardatevi Tropic Thunder, guardatevi Jumanji, e è più o meno sta roba qua. Sì, è più Tropic Thunder forse che Jumanji. Perché ci sono loro che fanno il film e nel film succedono i casini come fosse, cioè il film praticamente diventa la vita reale, che poi è comunque un film, vabbè, poi avete... ho fatto tutta questa cosa confusa perché non so cosa dire del film. No, volevo chiedervi intanto voi cosa ne pensate, anche se immagino... Beh, abbiamo capito che a Jack Black piacciono le ambientazioni giunglose. No, niente di che del film, sinceramente. Non mi ha fatto schifo, ma... È quasi noioso alcune volte. Sì. Sì, avrei preferito... Mi fosse piaciuto di più. Non lo so. Ah, c'è una scena in cui ho riso. E ve la spoilerò anche a voi che non l'avete visto, ed è la scena in cui lui corre con un maiale addosso. Effettivamente non c'è un cazzo da fare, come se ti avesse messo una pecora davanti che ti fa beh, cioè non puoi non ridere per una cazzata. Vero. Però ma a me piace, scusa, vai. No, a me piace proprio la premessa, cioè il motivo per cui ho considerato questo film è che mi sembrava fosse potenzialmente non solamente noioso. Cioè, la cosa che mi interessava era capire se con questo, diciamo, layer in più meta cinematografico, potessero. E effettivamente, secondo me, c'ha un po' più di cuore di altri reboot. Perché un po' ricorda appunto Tropic Thunder, un po' ricorda Sharknado, un po' ricorda anche appunto, cioè, Commedia del 2005, quindi un film di 20 anni in ritardo, però sì. Cioè, c'ha quella cosina in più del, degli sceneggiatori di Boris, no? Quando i tre sceneggiatori di Boris parlano fra di loro, a me quella comicità, quella presa per il culo torna quando loro stanno parlando del fatto che ah, ci devono essere dei temi, sì, mettiamo dei temi, cioè, così a, a, a livello altissimo. Sì, tra l'altro c'è una frase incredibile che, cioè, in un film di merda, perché effettivamente è un film di merda, c'è una frase che è assolutamente, cioè, è meglio di quello che ha vinto l'Oscar come descrizione del cinema attuale. E dice, e mi sale Jack Black che dice: The Academy loves social horror. No, lo dice Kenny. Il... Ah, lo dice. E quanto cazzo è vero? Cioè, è la descrizione vero, di, dello stato dell'Academy in questo momento. Cioè, è un horror con un fake, perché è fake, contesto, diciamo, messaggio sociale, messaggio attuale. E cioè. Allora, vabbè, a parte Sinners, che comunque è quello, che però era anche un film bello, la maggior parte del, di quello che esce adesso è questa roba qua. Cioè, la, la roba famosa adesso è la roba questa. Cioè, un film piatto con un finto richiamo a roba della società. Vero. È Bugonia, cazzo. È Bugonia, è vero. Sì, tra l'altro c'è tante cose che sono talmente male, come dire, male inserite che proprio non, non aggiungono nulla, no? Tipo il colpo di scena di lei, sì. Amatissimo. O, ma anche il finale, è ridicolo. Sì, beh, il finale. Steve Zahn a me sta simpatico, io purtroppo lo adoro, è proprio un patato e lui era il... la voce e i movimenti di, della mia scimmia preferita nel terzo pianeta delle scimmie di quelli nuovi. Non so se avete visto. No. Lì, la guerra, vabbè. C'è una scimmia che si chiama Bad Ape, scimmia cattiva, e che la fa lui e io lo adoro. Però sì, cioè, in questo film è un personaggio insensato, proprio senza... C'era bisogno di 10 minuti di lui che non riesce a pisciare, cioè nel senso... Sì, no, infatti lì è proprio mandata in vacca. Era carina la dinamica fra l'addestratore e Porrad, cioè mi è piaciuta quella, quella parte lì, molto anche lì, molto 2007 come comicità, però era abbastanza carino. Però poi è finita e quindi basta. No, secondo me... Allora, questo è l'anno dei sequel, o dei comunque dei, insomma, dei seguiti dei franchise, e questo in pratica lo è. Forse questo è un po' diverso dagli altri, però in generale la mia teoria è che, visto che il pubblico, poi vedremo il film perché comunque è marzo, adesso ce n'è ancora di roba, e, visto che il pubblico di questi sequel siamo noi, e noi e diciamo gli anni 80, io ho molta paura che saranno tutti film così, ovvero premesse di noi che, diciamo, di rivincite dei propri sogni, non so come dire, e noi volevamo fare una cosa 20 anni fa e non siamo riusciti, c'è una svolta e adesso la facciamo, che è un po' l'incipit narrativo di questo film. E io ho molta paura perché ho capito che noi siamo quelli che in questo momento vanno più al cinema probabilmente, o comunque pagano più soldi per vedere i film, però avete rotto anche il cazzo. Cioè, non so come altro dirlo. Diciamo che puoi sfruttare, se vuoi convincere un producer, qualcuno che ha i soldi a darteli per fare qualcosa di nuovo, usare un nome va bene, cioè questa cosa la prendono per il culo in The Studio, che è quella serie TV dove fanno vedere e lì, cioè effettivamente fa molto ridere, però lì la serie non parla di un film, e basta, cioè parla di tutta una serie di stronzate che fanno gli studio di Hollywood. E purtroppo però è vero, cioè poi finisci che a volte fai ste cose solo per come si dice, per fare una ragazzata, così per provare a tirare per fare un po' di soldi, sì, un po' di cassa. Sì. Però boh. Cioè, non so se è andato bene questo film. Non lo so, sinceramente preferisco un tentativo onesto a un tentativo disonesto, e questo mi sembra un tentativo onesto. Cioè, tentativo onesto potrebbe essere fare un vero reboot, un vero sequel, perché ti piace il progetto, ti piace diciamo il film originale, e quindi ci metti impegno, ci metti visione, ci metti del tuo. Che secondo me alcune delle cose che sono uscite di Alien sono queste. Mm-hmm. Disonesto lo fai per cassa, tipo alcune cose che sono uscite di Alien, oppure non so, pure Craven, queste cose qua. Cioè... Ma Craven non è un sequel, no? È più quelli che usano il franchise, ma ne vedremo, ne abbiamo viste, ne vedremo, anche solo Jumanji, per dire. Cioè era anche carino il primo, però poi già il 2 era di troppo. Sì, boh, non lo so. Vabbè, vediamo. Cioè, secondo me l'andamento è circa questo, perché riprendere un franchise vecchio e... Cioè, diciamo che ci sono due possibilità. Questo film come pubblico ha noi che abbiamo visto Anaconda, o noi che abbiamo visto, diciamo, il tipo di film su cui si basa. Un film tipo Minecraft... No, riprendiamo Jumanji per mantenere il coso. Un film tipo Jumanji, che ha sia attori più giovani sia questi, prova un po' a strizzare l'occhio a un pubblico più ampio. E io ho paura che cioè, sono entrambi comunque film pigri come caratterizzazione dei personaggi. Io ho paura che vedremo un altro un po' di questo, semplicemente perché siamo noi che li andiamo a vedere. Non lo so, eh. Dovremmo guardare un po' adesso. Compito per la prossima puntata: guardare dei film, cercare dei film per generazioni diverse. Vabbè, li abbiamo già visti, non è che voglio, però un film tipo questo, ma per una generazione nuova, se esiste. Troppo sapio. Torniamo ai film con i maiali attaccati alla schiena. No, ditemi voi, non so. Si può fare, ma cioè conosci qualcosa? È già. Ah, no, è dobbiamo. Chiediamo a Gemini. No, adesso ha detto per dire. No, vediamo. Insomma, vediamo se Jack Black evita di fare altri 10 film l'anno, perché il suo personaggio è più o meno sempre quello. Quindi già lui è indicatore di stanchezza. Nonostante penso sia divertito di più per questo film che per altri che abbiamo visto negli anni, cioè nell'anno scorso. Vabbè, volevate aggiungere qualcosa? Niente, andate a vedere Dune Part 3, parte 3 al cinema a dicembre. Ci vediamo nel frattempo. No, beh, questo film ha fatto 140 carico. Milioni, E quanti ne ha spesi? Che quella seconda è un po' però... costosa. Magari non ha comprato il franchise. Spoiler. Perché ce l'ha ancora Ice Cube. No, va bene. E dai. Ci vediamo settimana prossima. E mi raccomando, portatevi le preghiere. Ciao, ciao. Ciao, ciao.